e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Giornata nera per le borse, l'Europa brucia 233 miliardi, tonfo di Milano che perde quasi il 5%, trascinata dalla caduta dei bancari. Banche ancora sotto pressione, Montepaschi crolla a meno 22%, vertice tra governo e Banca d'Italia. Vertice sulle banche, Visco e Padoan, Palazzo Chigi, il ministro dell'economia, il sistema è solido. Male, malissimo il rublo, in perdita in questo momento anche Wall Street. Ma anche i mercati delle materie prime, il petrolio in questo momento sta perdendo a New York, alla borsa di New York, il 7,5%. Si impone all'attenzione di tutti, anche di chi non ha... Buongiorno e benvenuti da Deborah Rosciani. Oggi Cuore Denari va in onda in una versione un po' speciale, visto quello che si sta scatenando sui mercati finanziari. Abbiamo pensato di dedicare tutta la puntata a questo tema. Stiamo vivendo delle giornate difficili, l'inizio del 2016 può essere considerato davvero indimenticabile sul fronte dei mercati finanziari, dell'andamento di borse, obbligazioni, valute e quant'altro. Piazza Affari, in particolar modo le banche italiane, sono sembrate letteralmente sotto attacco, anche se oggi il premier Matteo Renzi, nell'intervista rilasciata al direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, rassicura che il sistema bancario è solido, che non è in corso un attacco all'Italia, rispondendo così a chi aveva paragonato la situazione di questi giorni a quella che si è manifestata nella famosa estate dello spread, quella del 2011, che come ricorderete bene portò al traumatico cambio di governo fra Berlusconi e il tecnico Mario Monti. E ora ha anche precisato Matteo Renzi, le banche italiane devono concentrarsi sul consolidamento del settore italiano, quindi avanti, confusioni, aggregazioni, acquisizioni, e anche commentato: a questi prezzi Banca Monte dei Paschi è un affare. Ieri peraltro ricordiamo che addirittura le Poste Italiane e Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit, avevano dovuto pubblicamente smentire di essere stati interpellati per un intervento di emergenza nel capitale di MPS travolta in borsa. Intanto vi anticipo che in questo momento per Monte dei Paschi a Piazza Affari c'è un rialzo del 20%. Il titolo rivede i 61 centesimi, per cui stamattina evidentemente c'è chi è andato a caccia di buoni affari e, convinto della solidità di questa banca, pur nelle sue grosse difficoltà, è probabilmente andato ad acquisire delle fettine di capitale, dati i prezzi stracciati che il titolo aveva raggiunto. C'è un rialzo complessivo di Milano dello 0,5%, i titoli che stanno andando bene pur senza brindare: Mediaset più 3 punti, Telecom più 2,50, la stessa Unicredit, che pure è stata decisamente bastonata negli ultimi giorni, segna più 2,43%, Telecom più 2,40, più 2 punti per Prismian e Ferrari. Abbiamo anche un bel gruppo di titoli in negativo: Saipem sta perdendo più di 10 punti. Oggi è la giornata in cui il Consiglio di Amministrazione deve fissare il prezzo dell'aumento di capitale da 3,5 miliardi di cui la società necessita. Perde un altro punto Intesa San Paolo, quindi non tutte le banche oggi recuperano. Anche il Banco Popolare in calo dello 0,6%, su questa banca è venuta la Consob, come ha fatto nei giorni scorsi, e ha vietato per oggi le vendite allo scoperto. Allora, sullo sfondo di tutto questo, poi vi riporterò anche di altre dichiarazioni di Matteo Renzi di stamattina, perché sono quelle che interessano peraltro Cuore e Denari. A un certo punto il direttore del Sole chiede: gli italiani possono stare al sicuro con i loro risparmi? Ovviamente sì, dice il premier. Del resto, avere uno dei risparmi privati più alti rispetto al PIL è la grande forza italiana, non la disperderemo mai. Perché mi sono agganciata a questa considerazione? Perché naturalmente sullo sfondo di questa situazione finanziaria internazionale ci sono proprio le preoccupazioni dei risparmiatori. Chi conosce le dinamiche del mercato sa che queste fasi di correzioni ciclicamente arrivano e deve esserci sempre una causa scatenante. Nel caso di questi giorni sono state due: la Cina, la svalutazione dello yuan e il crollo del prezzo del petrolio. E quindi questi risparmiatori, che in qualche maniera sono consapevoli di quello che in finanza può accadere, si mettono in attesa che il mercato inizi gradualmente a recuperare e risalire. Ci sono poi anche coloro che invece si lasciano condizionare dalla frenesia finanziaria e nell'indecisione non sanno bene cosa fare, hanno la tentazione di liquidare tutte le proprie posizioni e rimettere i soldi sotto il materasso. Insomma, fra queste due attitudini, fra questi atteggiamenti radicalmente diversi, c'è chi anche si lascia naturalmente poi seguire un po' dai consulenti finanziari, che pure devono fare gli psicologi in questi giorni per rassicurare le persone, le famiglie, le imprese che seguono. E allora, cosa dire dei mercati di questi giorni? Puntata speciale, nella prima parte sentiamo Andrea Ragaini, responsabile della divisione Wealth Management di Banca Generali, che saluto subito. Dottor Ragaini, buongiorno, benvenuto, grazie, perché tra l'altro lo coinvolgo sempre nelle giornate nere di mercato, se non ricordo male. La chiameremo grazie il gufo. Grazie mille, Deborah, assolutamente sì, ma è un piacere stare con voi. Grazie. E più tardi ci collegheremo con altri due ospiti, intanto con Corrado Latini di Azimuth Global Advisory, per parlare proprio del tema nervosismo dei risparmiatori e come gestirla. Quindi sentiremo le riflessioni di un consulente finanziario che entra in diretta relazione, in vivo contatto ogni giorno con famiglie ed imprese. E più tardi ancora ci raggiungerà per proseguire questo speciale, perché non ci dimentichiamo che oggi è giovedì e quindi calza a pennello il nostro Investire Informati, ci raggiungerà Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi. Voi ascoltatori avete sempre la precedenza su tutto, quindi anche oggi microfoni aperti ai vostri commenti, domande, dubbi. Cosa avete pensato in questi giorni? Cosa avete deciso di fare? Oppure, insomma, nervi saldi, aspettate che la bufera passi, e passerà prima o poi, e quindi il mercato si riprenderà e tutto più o meno si ritornerà ad essere più tranquillo. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Se volete, come al solito, ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Allora, un ascoltatore intanto mi scrive: solo la signora Rosciani può pronunciare la parola brindare in riferimento al ridicolo rimbalzo di oggi. Infatti mi sembra di non averlo detto, o quantomeno non nel senso che lei ha percepito. Detto questo, non importa, poi magari ci ritorniamo. Ragaini, eccoci qua. Eccoci. Allora, i mercati globali sono interessati da questa volatilità eccezionale che ha il suo fulcro nel generale timore di un rallentamento, se non una recessione cinese, e dagli effetti che questa avrebbe naturalmente sul resto del mondo. Poi le quotazioni delle materie prime: la Cina è un importatore che potremmo definire vorace, sono in prima linea. Il petrolio ieri ha sfondato a ribasso un'altra importante soglia, quella dei $27 al barile. Quindi Cina e petrolio, i detonatori di questa situazione. Le chiedo subito un primo commento. Che cosa c'entra tutto questo con le banche italiane? Allora, c'entra abbastanza poco, dottoressa, e come sempre capita ci sono degli eventi scatenanti, e in questo caso sulle banche italiane mi verrebbe da dire, come ha detto ieri Daniel Nui, che è la responsabile della vigilanza europea, ci sono dei non eventi che hanno influenzato. La parte macroeconomica di cui si parlava, energia e prezzo del petrolio da una parte e rallentamento cinese dall'altro, sono due fattori che ci hanno accompagnato negli ultimi mesi del 2015 e hanno aperto il 2016. Sono due temi dominanti che, con l'impatto delle manovre delle banche centrali, rappresenteranno probabilmente un fil rouge che ci accompagnerà per tutto l'anno, proprio perché la crescita negli ultimi anni era stata trainata dai paesi emergenti e in particolare dalla Cina. Cina, che era un grande acquisitore di materie prime, di energia in primis, la Cina da qualche mese ha rallentato le importazioni di energia in modo molto molto forte, e questo fa presagire un ulteriore rallentamento economico anche al di sotto di quel 6,5% che il governo cinese ha posto come obiettivo 2016. Quindi un timore che la grande locomotiva del mondo possa rallentare ci accompagna dagli ultimi mesi del 2015 e ha aperto il 2016. Però questo non è sufficiente a spiegare quello che è successo sui mercati. Il prezzo del petrolio così basso apre una serie di problematiche anche negli Stati Uniti, perché tutte le aziende che producono shale gas e che hanno dei prezzi di produzione che non giustificano una loro esistenza con un prezzo del petrolio così basso, possono avere dei problemi, e potranno creare anche dei problemi, secondo alcuni analisti, su alcune banche americane. E questo per quanto riguarda le tensioni che portano volatilità dei mercati. Sulle banche italiane tutto questo non c'entra tanto, ma poi pensare di dover dare una spiegazione razionale a cali del 25% o a dimezzamenti di capitalizzazione di banche in 3 giorni è davvero difficile. È proprio una suggestione collettiva, una paura che impatta su quello che lei ha detto prima, ha detto anche il Premier ieri, cioè su uno degli elementi di maggior forza del sistema Italia, cioè il risparmio privato. Quando si va a mettere in dubbio quello che si è costruito magari negli anni o in generazioni, il panico può prevalere. E quello che probabilmente è successo ieri in borsa su alcune banche in particolare non può essere definito che panico, cioè vendita a prescindere da qualunque tipo di razionale con una scorta emotiva che porta dietro la paura di perdere quello che si è accumulato. Certo. In molti hanno detto, dottor Ragaini, intanto invito ancora gli ascoltatori che vogliono intervenire a prenotare i loro interventi all'800240024 oppure a scriverci al 349-238-6666. Adesso abbiate pazienza, c'è chi ci chiede perché il petrolio scende. Non vorrei ritornare su questa analisi sulla quale abbiamo versato fiumi di inchiostro e speso fiumi di parole nelle ultime settimane, per cui magari invito l'ascoltatore, se vuole, a riprendersi alcuni dei nostri podcast sul sito di Radio 24, ma insomma anche qualche tema lo ha ritoccato di nuovo poco fa il dottor Ragaini. Le chiedevo, in molti hanno detto che per affrontare questa tempesta perfetta le banche centrali devono intervenire ancora. Cosa devono fare secondo lei? Perché la Federal Reserve i suoi interventi li ha già ripresi in dicembre, deve adesso a questo punto già fermarsi di nuovo nella sua stretta monetaria che è in corso? La BCE, la Banca Centrale Europea, che oggi riunisce il direttivo a Francoforte ed è molto atteso l'intervento di Mario Draghi nella conferenza stampa consueta delle 14.30 che segue la fine appunto della riunione del direttivo. La BCE quali armi ha ancora per intervenire? Le banche centrali asiatiche cosa ancora devono fare, dottor Ragaini? Allora, lasciare in effetti tutto nelle mani delle banche centrali è un esercizio estremamente pericoloso, perché poi come tutte le manovre straordinarie ci sono dei momenti di uscita e vediamo proprio con la Fed americana quanto sia difficile poi uscire da manovre non convenzionali che si sono fatte per tanti anni. Quindi sicuramente le armi, quando si parla di armi non convenzionali, le banche centrali hanno un potere straordinario che è quello di stampare moneta, e con la stampa della moneta e con la moneta possono fare tante cose, cioè comprare qualunque tipo di attività finanziaria sul mercato. La BCE con la sua politica quantitativa lanciata l'anno scorso ha iniziato a comprare grandi quantitativi di titoli di Stato e infatti vediamo che lo spread Italia-Germania, nonostante questa grossa tensione sul sistema paese, non si è mosso tanto, proprio perché c'è un compratore, si chiama compratore di ultima istanza a livello tecnico, che compra il debito pubblico. Allora, pensare a ciò che la banca centrale può fare è veramente pensare a un foglio bianco in cui si scrive qualunque letter of wishes, qualunque desiderio si vuole scrivere, però francamente non è neanche sempre giusto pensare che siano le banche centrali a intervenire in questo ambito. Certamente il messaggio che può essere dato dalle banche centrali è che il paese, in questo caso il paese Italia, ma l'Europa in generale, ha un sistema bancario strutturalmente solido, che questo tsunami che è partito in funzione probabilmente anche di un percorso faticoso che alla fine dell'anno scorso ha portato al salvataggio delle quattro banche regionali e la partenza al primo dell'anno del bail-in ha amplificato e ha detonato questo effetto, e quindi può portare tranquillità in questa direzione, ma aspettarsi sempre che siano le banche centrali a intervenire in ultima istanza per risolvere un effetto che comunque è un effetto emotivo è probabilmente non corretto. Allora, sono le 10.47, dobbiamo andare a sentire il traffico. Io ringrazio Andrea Ragaini per questa prima analisi, come sempre estremamente chiara, che ci ha regalato questa mattina. Adesso andrei al Risparmiatori Che Fare con Corrado Latini. Dottor Ragaini, intanto grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata. Ci sono anche già due ascoltatori pronti ad intervenire. Se non vi riesco a sentire in questa prima parte della trasmissione, ovviamente abbiamo tutto lo spazio necessario a partire dalle 11.10 fino alle 12 con Investire Informati e Vittorio Gaudio, ma magari su qualche cosa faccio divertire anche Corrado Latini tra poco. Adesso il traffico perché è tardissimo. Cuore e denari. Non c'è una manovra speculativa, c'è una percezione inesatta che ci siano debolezze nel settore bancario. Dico inesatta con molta forza, perché ieri tra l'altro Daniel Newey, che è la responsabile della sorveglianza del sistema dell'Unione Monetaria Europea, della BCE, ha negato in modo esplicito che ci possano essere azioni relative a banche italiane. Le banche italiane sono in difficoltà perché sono state banche robuste durante gli anni della recessione. Ricordo che l'Italia è il paese che praticamente, al contrario di molti altri paesi europei, non ha introdotto denaro pubblico nel sistema bancario. C'è stata un'informazione, chiamiamola distorta. Era il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, intervenuto proprio in mattinata di nuovo su questi delicatissimi argomenti di cui stiamo discutendo anche noi questa mattina in questa puntata speciale di Cuore e Denari dedicata alle vicende sui mercati finanziari, alle preoccupazioni dei risparmiatori. Questa mattina intanto risegnalo di nuovo modestissimo, anzi quasi nullo, rimbalzo delle borse europee, più 0,26% per il FTSE MIB a Piazza Affari, molto volatile la mattinata. Quantomeno abbiamo qualcuno che si è precipitato a comprare Monte dei Paschi, più 18,43% adesso per i titoli di Rocca Salimbeni, che recuperano quantomeno intorno ai 60 centesimi di prezzo. Allora, buongiorno a Corrado Latini, Azimut Global Advisory, benvenuto, grazie. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Una lunga esperienza come consulente finanziario alle famiglie e alle imprese, lei è giovanissimo naturalmente, ma ha una lunga esperienza, come dicevo, nel mondo della consulenza finanziaria. Quello che ci interessa capire è che, visto che ha già affrontato fasi in cui le oscillazioni delle borse hanno messo dura prova la tenuta emotiva generale di tutti, dei risparmiatori ma anche di voi consulenti, le volevo subito chiedere, Latini, che differenza c'è fra la crisi di queste settimane e altri momenti difficili vissuti in passato? L'ultimo che ricordiamo naturalmente è quello legato alla divaricazione del famoso spread, il differenziale di rendimento fra Italia e Germania, che nell'autunno del 2011 è arrivato a 575 punti base. Il paese era veramente sull'orlo della bancarotta. Oggi abbiamo una condizione molto diversa, ma i nervi sono saltati per tutti. Che differenze abbiamo fra la crisi attuale e le ultime di cui lei vuole raccontarci? Ma al di là delle crisi, proprio dei motivi oggettivi che portano a queste fasi di mercato, sicuramente c'è un atteggiamento comune, che è un atteggiamento psicologico, poi di chi giustamente vede quotidianamente erodersi i propri investimenti, no? Diciamo che la prima cosa sicuramente da fare in queste fasi, che ripeto accomunano dal punto di vista psicologico tutti questi scostoni anche violenti ai quali assistiamo, è quella prima di tutto di verificare che tipo di investimento è stato fatto col proprio promotore, col proprio consulente, verificare la direzione, gli obiettivi dell'investimento stesso e soprattutto mai farsi prendere dal panico, perché comunque il mondo non finisce, il mondo va avanti, probabilmente il mondo cambia e diciamo che siamo qui per questo, anche per cercare di capire come seguire questo cambiamento dal punto di vista degli investimenti. Andiamo appunto proprio a queste paure dei risparmiatori che state affrontando, dottor Latini, in questi giorni. No, la tentazione per moltissimi è quella di liquidare tutto, adesso non dico mettere tutto sotto il portafoglio, ma quantomeno mettere tutto sul conto corrente. Poi abbiamo il bail-in, quindi attenzione anche a mettere tutto sul conto corrente, perché forse è bene spezzettare anche cifre enormi, magari su un paio di conti correnti. Ma in ogni caso, a prescindere da questo, come evitare di prendere decisioni sbagliate o dettate dall'emotività? Dunque, prescindendo dal fatto che comunque il conto corrente non è uno strumento di investimento, ma comunque uno strumento tecnico che serve per gestire della liquidità, che quindi come tale ha dei flussi dinamici di entrata ed uscita, purtroppo sono proprio questi momenti in cui diciamo l'effetto emotivo, quello che si dice ragionare di pancia sostanzialmente, porta a prendere delle decisioni che poi segnano l'investimento finanziario o la storia dell'investimento finanziario del patrimonio. Quindi molto spesso in queste fasi di negatività si è coinvolti emotivamente da queste situazioni, perdendo di vista oggettivamente quello che si ha effettivamente in portafoglio, che più delle volte rappresentano sicuramente valori certi tipo aziende piuttosto che titoli rappresentativi di beni reali, e si tende veramente a far di ogni erba un fascio, quindi liberarsi, come abbiamo visto ieri, ad ogni costo, al meglio addirittura di titoli che hanno un loro comunque valore, invece di magari cercare di approfittarne con una certa prudenza in fase di acquisizione, diciamo, no? Certo, tra l'altro stavo anche ragionando prima, volevo fare questo ragionamento con Andrea Ragaini, che poi ci ha lasciato, ma sicuramente questa è una domanda interessante anche per lei. Gli investitori professionali, peraltro qualcuno me lo ha anche confermato in questi giorni, approfitta dei ribassi profondi e generalizzati per andare a riposizionarsi sulle aziende che, loro malgrado, hanno subito la scossa di questi giorni, pur avendo dei fondamentali molto solidi rispetto invece a qualche altra società che è stata un po' più giustamente, direi, colpita dalle vendite. E quindi molte aziende sono diventate convenienti in borsa. Secondo lei, paradossalmente, chi potrà beneficiare di questa situazione? Ma allora, tanto per cominciare, ci sono modalità diverse per approfittarne, nel senso che chi lo fa come fai da te, nel senso come operatore di mercato, e chi lo fa professionalmente, non in misura sporadica occasionale, ma cercando proprio quelli che si chiamano gli entry point, no? Cioè i punti di ingresso più favorevoli per un'acquisizione ragionata o un miglioramento delle posizioni di investimento. Diciamo che in queste fasi di mercato la prima regola diciamo di un bravo asset manager è comunque cercare di non fare avventure, ma dove ci possono essere delle ragionevoli certezze di poter andare a comprare qualche cosa, ovviamente a dei prezzi realmente di saldo, e per saldo faccio l'esempio proprio di quello che si verifica in gennaio febbraio, le code davanti ai negozi quando ci sono sconti di 5-10-20% rispetto a un prezzo di mercato. Ecco, diciamo che un gestore cerca di fare esattamente la stessa cosa in campo finanziario, quindi cercare di prendere profitto di questa situazione, e questo profitto magari non si vede subito il giorno dopo o due giorni dopo, ma certamente nella vita dell'investimento questa cosa viene fuori. È uno dei motivi questo del perché, ad esempio, non smontare proprio su un'ondata psicologica posizione di investimento in questo momento, perché si annulla anche questo tipo di lavoro, certo, oltre che farsi del male dal punto di vista proprio di variazione. Intanto, per chi volesse proprio delle indicazioni molto operative su che cosa fare con un po' di risparmio in questo momento, approfittando della situazione, c'è il segnalo, la bussola del risparmiatore questa mattina sul Sole 24 Ore, una bella pagina di Marcello Frisone e Andrea Gennai. Si parla per esempio dei titoli di Stato americani, che in questo momento hanno più appeal fra tutti i beni rifugio, poi quale tipo di fondo di investimento ben diversificato potrebbe andare bene in un momento come questo, come cavalcare anche il ribasso delle azioni. In tutto questo, velocemente, la domanda di Angelo da Pavia, perché credo che gli possiamo dare anche una risposta telegrafica. Benvenuto Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie. Ecco, le mie domande è questa: con il crollo dei prezzi di borsa attuali, i dividendi di quest'anno saranno ugualmente distribuiti? Grazie Angelo. Latini, io immagino che se le aziende lo hanno deciso l'anno scorso, il dividendo da dare quest'anno ci sia, o può un'azienda anche decidere all'ultimo momento di non remunerare più gli azionisti? Ma è difficile, nel senso che una decisione del genere ha naturalmente poi delle implicazioni anche di altra natura sulla quotazione del titolo, a meno che non ci siano dei motivi di importantissima governance. Certo, diciamo, però in genere per le società quotate, le big cap, insomma, anche la distribuzione dei dividendi attiene alla preparazione dei piani industriali molto dettagliati sì, e precisi. Anche per il dividendo attuale è il dividendo relativo alla gestione dell'anno scorso, non riguarda il ribasso di borsa di questo momento, che eventualmente riguarderà la distribuzione del dividendo l'anno successivo. Certo. In genere poi le società distribuiscono i dividendi intorno a maggio, speriamo che sia una primavera serena per i mercati di aver completamente chiuso questa triste parentesi di gennaio. Grazie a Corrado Latini, buon lavoro per essere stato con noi. Noi abbiamo il giornale radio, adesso poi ritorniamo naturalmente con tutte le vicende legate ai mercati finanziari e torniamo con Investire Informati, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati a Cuore e denari in questa puntata speciale dedicata ai mercati finanziari. Noi li osserviamo spesso e volentieri, come sapete. Il giovedì abbiamo l'appuntamento con la scuola di risparmio. Oggi abbiamo pensato di dedicare una puntata intera al tema mercati finanziari, al crollo di borsa di questo primo frangente del 2016, anche alla crisi bancaria che riguardando il nostro paese, soprattutto di carattere finanziario, perché è in borsa chiaramente, poi ci sono tutte le vicende bancarie legate al fatto che molte di queste nel nostro paese hanno in pancia, come è noto, questi famosi crediti inesigibili o incagliati o problematici, e in sostanza l'Europa ha detto: è ora che fate qualcosa per sistemare queste situazioni. Insomma, complici anche la Cina e il petrolio, tutto è scoppiato in questi giorni e ha provocato appunto i ribassi di borsa molto importanti, per cui possiamo dire che dal punto di vista finanziario questo 2016 è cominciato davvero in modo